Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Forse i dissidi tra Don Sebastiano e Donna Vincenza erano cominciati proprio con la vendita dell'orto. È quasi impossibile sapere perché due coniugi litighino, perché la fonte della vita si trasformi presto in una fonte di odio. Già, forse perché è la fonte della vita, ma lasciamo stare. Il fatto è che a un certo punto, c'erano figli già grandicelli, Don Sebastiano aveva imposto a Donna Vincenza di vendere quell'orto, con gli altri pochi beni, dell'eredità di Monsù Vuglié. Donna Vincenza, già donna ormai, aveva resistito con tutte le sue forze, aveva gridato, aveva pianto, era arrivata persino a offendere il marito, a tirare in ballo tutta la protervia e la superbia dei Sanna, ma Don Sebastiano non aveva neppure sentito le sue parole, che del resto non sentiva mai, e l'orto era passato in altre mani per un pezzo di pane. Perché l'aveva fatto? Lo sa Dio perché. La mia spiegazione è questa. Don Sebastiano cominciava a far uscire dalla penna che scricchiolava le case e i campi. Si faceva ricco per quei luoghi e per quei tempi. Ora, quei pochi beni della moglie lo disturbavano. Gli pareva che di lì, non dalla sua fatica, potesse dubitarsi che veniva anche in parte la sua fortuna e soprattutto dubitarne lui prima degli altri. È una cosa pazzesca se si pensa che Don Sebastiano aveva voluto sposarsi, come si è detto, col regime di comunione dei beni, cioè tutti gli acquisti fatti durante il matrimonio dall'uno o dall'altro dei coniugi, ma l'altro, cioè la moglie, era un modo di dire, sarebbero stati comuni. Quel che interessava a Don Sebastiano non era la proprietà o il godimento, era l'acquisto, la costruzione della fortuna. Per questo non lasciava mettere il becco nell'amministrazione a Donna Vincenza, salvo per la vendita spicciola dei prodotti che si ammassavano nella casa, e anzi, peggio ancora, bastava che essa manifestasse un'opinione, esprimesse un consiglio, perché fossero rigettati, e tanto più quanto più erano ragionevoli. E forse per questo, perché anche i figli fanno parte della fortuna, faceva fare a Donna Vincenza quasi ogni anno un figlio, senza accorgersi che ogni figlio le accorciava la vita, la riduceva a poco un ingombro. Ma può darsi che in questo io sbagli, perché Donna Vincenza era madre dei suoi figli prima che fossero concepiti. Così come può darsi che la ragione sia un'altra, più generale e più profonda, ed è che in Sardegna la donna non esiste. E mi spiego. In Sardegna non esiste la gelosia, non esistono i delitti d'onore, come li chiamano, non esiste nulla. A differenza che nel resto del meridione e anche in tanti altri paesi, la donna non segue a piedi il marito a cavalcioni sull'asino quando scendono al poderetto, va sul carro con lui. E quando tornano per le strade erte e i buoi mugghiano sotto il carico, la donna sta sul carro ed è il marito che scende e fatica più dei buoi. A casa governa le masserizie, comanda alle serve e anche ai servi, custodisce le chiavi e vende alla spicciolata i prodotti, perché ogni casa è come una bottega e ci sono tutti i pesi e le misure, la stadera e i quarti per il grano. Ma non appare mai quando ci sono ospiti, neppure se sono amici di posata. Il motivo è che, come dicevo, la donna non esiste. Per il sardo, parlo del sardo di allora, si intende, prima che fosse un semplice inquilino di un'isola come adesso, la donna, la moglie, era come l'oggetto di un culto silenzioso, esposto alle vicende della vita, strumento delle esigenze della vita e quindi anche delle esigenze del marito e della famiglia, ma come rarefatta, esterna a quello che è il dominio dell'uomo, cioè al governo del piccolo stato familiare. In questo governo non poteva né doveva entrare, più di quanto non possa entrare la regina nel governo del re. Non è da escludere che ci fosse un complesso di inferiorità del marito in tutta questa costruzione. Certo è che le cose stavano così, naturalmente. Ancora una volta, insomma, quel che fa il padrone è ben fatto. Se con ciò si vuol pensare che la moglie era una schiava, allora è schiava anche la regina. E del resto, la differenza tra la regina e la schiava corre sul filo del rasoio. A questa natura non faceva eccezione Don Sebastiano. Nei momenti dei più sordi dissidi non c'era pericolo che egli a tavola si servisse per primo, poiché, secondo la tradizione, il piatto grande veniva affidato a lui per il taglio della carne e la distribuzione. Il primo boccone era per Donna Vincenza e si sarebbe alzato da tavola se quella, come qualche volta ne aveva la tentazione, avesse rifiutato, ciò che non gli impediva di scrollare le spalle e persino di zittirla quando apriva il becco con quelle terribili parole che abbiamo sentito: tu sei al mondo perché c'è posto. Il fatto è che Don Sebastiano, con tutta la sua cultura e la sua perspicacia, non aveva capito una cosa, perché probabilmente non poteva capirla, e cioè che nelle vene di Donna Vincenza scorreva mezzo sangue piemontese, e per quanto, come abbiamo visto, sardizzata fino a non conoscere altra lingua, quel sangue o la mistura di quel sangue operava sulla volontà e le impediva di non esistere. E quel che era peggio per Don Sebastiano operava sull'intelligenza, che era superiore a quella della razza vecchia e stanca dei Sanna e dei Sardi in genere, così che essa vedeva più chiaro nelle cose, teneva i piedi per terra, sentiva che la fortuna era anche nelle sue mani e dava consigli così acuti e così ragionevoli che Don Sebastiano montava in bestia solo a sentirli e faceva sempre l'opposto di quel che lei diceva. La sola superiorità che Don Sebastiano aveva su Donna Vincenza era il potere. Che comunione o non comunione dei beni, queste sono tutte stupidaggini che figurano nei codici. Il potere era il danaro che Don Sebastiano ricavava dalla professione, e per la bravura e per la fiducia che ispirava diventava sempre più cospicuo, e senza quel danaro Donna Vincenza aveva poco da essere intelligente. Anche il ricavato delle vendite spicciole lo ritirava lui per antica consuetudine, così che lei doveva rivolgersi a lui, chiedere a lui anche gli spiccioli per i minuti bisogni della casa. Non che le lesinasse nulla, se le chiedeva, anche 1000 lire le avrebbe dato, e quasi senza nemmeno curarsi di sapere perché. Ma a lui doveva chiederle. Il governo passava per le sue mani. Era una cosa da nulla, diciamo la verità. Che costa chiedere al marito 4 soldi per fare la spesa, che poi si riduceva a un poco di carne, e non tutti i giorni, perché il resto veniva dalla campagna o dai regali dei clienti. Ma quei 4 soldi erano il terribile prezzo che doveva pagare per riconoscere la propria inesistenza, e mai si sarebbe piegata a questo. Tutto poteva pretendere, e del resto tutto ella gli dava, perché non solo reggeva per la sua parte la casa con perizia e parsimonia, ma lo curava con amore quando gli capitava di ammalarsi e gli preparava i brodini o i dolci di latte nella convalescenza. Meno che questo. Lo aveva pregato nei primi anni di darle un fondo cui attingere per le spese, ma lui aveva risposto alzando le spalle che non ce n'era bisogno, che tutto era di lei. Con l'andare del tempo questo contrasto doveva assumere aspetti assai più gravi, come vedremo, e sarà gran parte della nostra storia. Intanto Donna Vincenza rimediava come poteva. Nella notte, quando il marito dormiva, poiché essendo mattiniero andava a letto presto, entrava col suo passo già tardo, ma ancora leggero, nella sua stanza, tenendosi il figlio più piccolo a mano, e frugava nei taschini del panciotto, dove allora si usava mettere le monetine d'argento, gli spiccioli, insomma. Non era una preda, era il suo danaro, col quale ogni mattina ricominciava la vita. Poi svaniva nel silenzio. Don Sebastiano non se ne accorgeva o faceva finta di non accorgersene, perché lei aveva sempre la cura di lasciar qualche cosa e poi, con quel che aveva da fare, Don Sebastiano non avrebbe contato i soldi e neppure le lire. Ho riletto dopo qualche giorno le cose che ho buttato giù senza troppo pensarci e mi sono reso conto di quanto sia difficile fare la storia, se non addirittura impossibile. Non c'è una parola di quelle che ho scritto che non sia vera e ho addirittura sofferto nel rileggerle. Eppure la realtà di Don Sebastiano e di Donna Vincenza non è o non è tutta in queste cupe immagini. Il fatto è che tra Don Sebastiano e Donna Vincenza, come fra ogni uomo, illustre o oscuro che sia, c'era la vita. E la vita non si riduce mai a un ritratto o a una fotografia. Neppure il cinematografo riproduce la vita, perché anche se si muovono, non sono che fotografie, l'una dopo l'altra. Ora, la vita di Don Sebastiano e di Donna Vincenza non era soltanto la loro. Era la grande casa in cui convivevano, erano i figli che la popolavano, la gente che vi andava per mille faccende, era Nuoro intera alla quale essi appartenevano e che ad essi apparteneva, come in una misteriosa comunione. Forse solo la musica, nella sua astrattezza, potrebbe rappresentare questa comunione di angeli o di diavoli che sia. E forse la vera e la sola storia è il giorno del giudizio, che non per nulla si chiama universale. La verità è che la famiglia aveva raggiunto il suo compimento con la nascita e la crescita di 7 figli, tutti maschi. C'erano state 2 femmine. La prima e primogenita era tanto lontana che svaniva nel ricordo. Ma l'altra, l'ultima, era morta da poco e quel ricordo non sarebbe svanito mai più dall'animo di Donna Vincenza. Oscuramente ella sentiva che in mezzo a tutti quei maschi le sarebbe mancato il sostegno. Lei l'avrebbe adorata, lei le avrebbe parlato, non si sarebbe neppure sposata, almeno finché lei non fosse morta. E invece se n'era andata così a 3 anni senza dire perché. E a lei erano rimasti gli umili vestitini di una bambina di buona famiglia, la pagliettina col fiocco, le scarpette bianche. Aveva disteso tutte quelle cose senza senso e senza scopo nel cassettone basso dell'armadio della sua stanza e le teneva là come piccole reliquie. Don Sebastiano le aveva scoperte e non aveva detto niente. Se n'era però lamentato con altri, come di una stranezza, una cosa che non si riusciva assolutamente a capire. È un momento solenne, quasi religioso, quello in cui, secondo l'ordine della natura, si chiude il ciclo di formazione della famiglia. Cioè, per dirla poveramente, la moglie cessa di far figli. Parlo, si capisce, della famiglia ideale, di cui questa di Don Sebastiano e Donna Vincenza era un modello. Che nella pratica le cose vadano diversamente e succedano 1000 cose brutte, come si legge nei giornali o nei romanzi o si vede nei cinematografi, a me non interessa. Faccia ciascuno quello che vuole. Quando nacque quel figlio che non poteva che essere l'ultimo, tanto che ripeterono in lui il nome del padre e lo chiamarono Sebastiano, i letti di Donna Vincenza e di Don Sebastiano si separarono. Egli rimase nella stanza attigua al suo ufficio. Come abbiamo detto, don Gabriele aveva fatto le stanze una dentro l'altra e lei emigrò al terzo piano, due rampe di scale in più, proprio nella stanza sopra quella di don Sebastiano, solo che in quella attigua che dava sulla scala non c'era un ufficio, ma dormivano due dei suoi figli. Dormivano a due, secondo le affinità elettive che si determinano nelle grandi comunioni, e una famiglia di sette figli è una grande comunione. Nel momento al quale penso, accanto a donna Vincenza, dormivano i due più piccoli, Sebastiano e Peppino, che erano distanziati di 4 anni. Nel mezzo c'era stata quella bambina che era morta. Altri 4 dormivano nello stesso piano, nelle stanze di fronte. 2 nella prima, Pasquale e Ludovico. 2 nella dipendente attigua, Michele e Gaetano. L'altro, il primogenito, dormiva solo al piano di sotto, nella stanza opposta a quella di don Sebastiano. Si chiamava Giovanni, come dicono quel nonno piemontese, e stava solo perché il numero era dispari, va bene, ma perché tra lui e l'ultimo correvano 16 anni di differenza. Era già quasi un uomo e aveva dell'uomo certe cose che agli altri sembravano stranezze. Per esempio, faceva lo schizzinoso per il modo come gli stiravano le camicie, per il disordine della casa, e arrivava a criticare la trasandatezza campagnola del padre. Forse c'era sotto qualcosa che gli altri non capivano e ne provavano un misto di soggezione e di rabbia. Del resto, quella divisione di stanze, quella raffigurazione da presepio che abbiamo fatta della casa, era soltanto formale. In realtà, nella casa che cominciava a diventare dei figli, anche se don Sebastiano ne teneva ancora le redini come teneva le redini del cavallo, ogni cosa era di tutti e di nessuno. Si provassero o l'uno o l'altro, salvo forse Giovanni, a chiudere a chiave la porta, dopo 2 secondi era scardinata. La guerra e la pace erano i minuti alterni di quell'esistenza. Ma queste sono cose che succedono in tutte le famiglie. Quel che importa, invece, è che la casa lentamente, inavvertitamente, assumeva un nuovo volto, quello che avrebbe conservato per lungo tempo e che sarebbe rimasto nella memoria. Era sempre la disgraziata casa di don Gabriele, ma essa si trasformava nella fantasia e nell'azione dei figli. Don Sebastiano aveva una sola ambizione, quella di far studiare i figli. 7 figli, 7 lauree. E a ciascuno costruiva il suo destino, come se l'era costruito lui, in quell'annuoro dove c'era posto per tutti. E i figli, miracolosamente, rispondevano al suo sogno, perché erano intelligenti e studiavano. Don Sebastiano, curvo sulla sua penna, vigilava sopra il suo sogno senza mai intervenire perché non era necessario. Tutti si alzavano presto nelle gelide mattine d'inverno, si lavavano nella prima corte, rompendo qualche volta il ghiaccio che si era formato nella tinozza, e correvano a scuola. Donna Vincenza si era alzata prima di loro, aveva scaldato il latte con l'aiuto della serva, che era là da tanti anni, da sempre, e governava la casa come se fosse la sua. E in effetti lo era, perché già avanti negli anni dove sarebbe andata se non fosse rimasta là? Ma a parte questo, vi era nei servi e nelle serve come un senso di possesso della casa e dei luoghi in cui vivevano, e del resto le vite erano infinitamente più vicine di quello che non siano oggi. Cosa aveva donna Vincenza più di Peppedda, così si chiamava la serva, Saterracca, se non il mazzetto delle chiavi che le pendevano al fianco, delle chiavi di cui non sapeva poi cosa farsi? E i servi di campagna di don Sebastiano, zio Puddanzu, ad esempio, che cosa aveva egli più di loro? Già non si capiva nemmeno che cosa fosse zio Puddanzu, che viveva sempre a Locoi ed era più padre dei figli di don Sebastiano stesso, tanto che i piccoli credevano che il padrone fosse lui. C'era il denaro, sì, i frutti che andavano a don Sebastiano e gli altri raccoglievano per lui. Ma che cosa vuol dire il denaro quando l'estate si soffre lo stesso sole perché non viene neanche in mente di andare in villeggiatura. D'inverno lo stesso freddo. Non si viaggia, non si comprano cose costose e nemmeno si mangia la carne tutti i giorni. C'era la casta, ecco, questa misteriosa appartenenza che traspare dal viso e dalle mani e non si può conquistare col denaro e neppure col passare delle generazioni. I paesani che erano diventati i padroni di Nuoro con la loro vitalità erano diventati signori, ma non erano entrati nella casta. I servi lo sapevano e lo sentivano oscuramente e l'accettavano come una cosa buona e giusta. E può darsi che lo fosse.